Nessun miglioramento intanto per l'Italia sul fronte corruzione. Il livello percepito è molto alto nel nostro paese, rivela la classifica dell'organizzazione Transparency International presentata a Berlino. Ci piazziamo al 69esimo posto su 182, quartultimi in Europa, davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria. E adesso diamo uno sguardo alle piazze finanziarie. Oggi prevale la cautela, vero Deborah? Sì, la cautela, ma diciamo che in realtà possiamo definire questa seduta come una seduta di consolidamento dei rialzi molto vistosi realizzati ieri dalle borse internazionali a seguito di questa azione congiunta delle banche centrali internazionali per garantire liquidità in dollari al sistema, di cui appunto l'Eurozona faceva fatica ad approvvigionarsi da molte settimane a questa parte. Il quadro vede Milano in rialzo dello 0,27%, Londra più 0,29%, sono invece negative per circa mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte. Molto bene ancora l'euro sul dollaro, che pure beneficia di questa azione appunto di ieri, 1,3485 il rapporto di cambio in questo momento tra le due divise. Soprattutto ne ha beneficiato, con un netto allentamento della tensione, il mercato obbligazionario, perché il famigerato spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani a scadenza decennale e i titoli tedeschi a scadenza decennale, è sceso fino addirittura al di sotto dei 450 punti base, per poi risalire poco fa intorno a questo livello. Ma è davvero lontano rispetto ai record delle ultime settimane. Il rendimento dei titoli italiani è sceso ben al di sotto del 7%, al 6,7%, per cui questo è sicuramente il termometro più importante. I titoli migliori di Piazza Affari Fondiaria più 10%, il gruppo potrebbe ricapitalizzarsi con un veicolo straordinario. Monte Paschi più 3%, e poi nella giornata in cui dal consiglio di amministrazione dovrebbero venir fuori le dimissioni di Guarguaglini, Finmeccanica guadagna il 2,80%. Anna Rita. Grazie alla nostra Deborah Rosciani, e noi accendiamo i riflettori proprio su Finmeccanica. Lo avete sentito, è un giorno particolarmente importante, il giorno che potrebbe segnare dopo 9 anni la fine dell'era Guarguaglini. Se è così, lo chiediamo e lo ringraziamo a Gianni Dragoni nel Sole 24 Ore. Gianni. Buongiorno, dovrebbe essere così, solo un imprevisto potrebbe portare a una conclusione diversa. Oggi Guarguaglini dovrebbe dimettersi, non dovrebbe neanche forzare un braccio di ferro con il governo nel consiglio di amministrazione che si riunisce a metà pomeriggio alle 4:30 in piazza Montegrappa. Senti Gianni, sui nomi della sostituzione ne girano veramente tanti. Secondo te qual è il più attendibile? Io te ne faccio alcuni: Cantarella, Venturoni, non lo so. Oggi tanti c'è anche nomi, quindi neanch'io sono sicuro. Secondo le mie informazioni, quello che avrebbe maggiori probabilità è l'ammiraglio Guido Venturoni, che è già nel consiglio di amministrazione ed è il consigliere anziano, cioè quello in carica da più tempo, a parte Guarguaglini, dal luglio del 2005. Lo sostiene il ministro della difesa, che è un altro ammiraglio di Paola. Invece nel governo ci sono state anche delle intenzioni di azzerare tutto il vertice, cioè con Guarguaglini far uscire anche quello che è l'amministratore delegato dal mese di maggio, Giuseppe Orsi, mettendo magari un candidato forte. Si è parlato ad esempio di Vito Gamberale, ex Telecom Autostrade, ora al fondo infrastrutture 2i. Mi sembra però che stia la soluzione che sta prevalendo sia quella di sostituire solo il presidente, che dovrebbe essere dimissionario, senza fare un ribaltone. Forse non ce ne sarebbero neanche i presupposti in questo momento. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Siamo alla nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'affitto da stanare è quello in nero, sconosciuto al fisco, con cui si aggirano imposte di registro, tasse locali, IRPEF, causando mancate entrate per le casse dello Stato di almeno 1 miliardo di euro all'anno. L'evasione più sottile sia quando il proprietario registra un contratto ma non denuncia il canone nel 730 o nel modello unico, oppure lo fa per importi inferiori. L'Agenzia delle Entrate ha cominciato a inviare la prima tranche del 2011 di questi accertamenti. Sono stati scoperti così 33.367 casi di non corrispondenza. partenza. Ai primi posti ci sono la Lombardia con 5.400 accertamenti e il Lazio con 5.112. Simonetta Neri, direzione centrale accertamenti persone fisiche dell'Agenzia delle Entrate, spiega come si selezionano i destinatari dell'avviso di accertamento. Vengono predisposte delle liste di soggetti sulla base di incrocio tra banche dati che sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Per esempio la banca dati registro, dove sono contenuti tutti gli estremi dei contratti di locazione registrati. Da un'altra parte abbiamo un'altra banca dati, che è la banca dati dei versamenti, modelli di pagamento F23, ovvero F24 in via telematica. Altra banca dati importante è la banca dati delle dichiarazioni. Al contribuente arriva prima un avviso e poi, se non ha denunciato in dichiarazione il canone, il reddito accertato è pari al canone ridotto del 15%. Se lo ha dichiarato con sconto, il reddito accertato sarà integrato con la differenza scovata dal fisco. Insomma, se la volontà politica di scovare gli affitti in nero ci sarà, gli accertamenti a tutto campo sono possibili e l'obiettivo di colpire l'evasione, finora molto elevata, verrà raggiunto. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Emergenza smog a Roma, Milano e Firenze, dove scattano le misure decise dopo l'ennesimo superamento dei limiti di polveri sottili. Oggi e domani nella capitale si circola a targhe alterne. Andrea Viali ha intervistato l'assessore alla mobilità di Roma, Antonello Aurigemma. C'è una situazione molto fluida del traffico, quindi sicuramente gioverà non solo alle emissioni dei polveri sottili, ma anche alla mobilità della città. Avete disposto controlli particolari? Sì, ci sono i controlli dei vigili urbani, ma soprattutto abbiamo intensificato le linee del trasporto pubblico su gomma. Domani si replica e sarà una situazione analoga. L'unica particolarità è che domani c'è uno sciopero di una società di trasporto pubblico privata che riguarderà 7 linee della periferia sud. Secondo lei i romani sono d'accordo con questo provvedimento? Io penso che queste misure non sono sicuramente la soluzione al problema delle emissioni dei polveri sottili, ma sono misure che vengono prese dall'amministrazione comunale per tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini. Quindi nell'attesa dello sviluppo vero della mobilità sostenibile, con l'inizio del prossimo anno andremo a verificare questa situazione. Sicuramente le vere risposte sono l'apertura delle grandi infrastrutture delle metropolitane, il nuovo piano merci proposto, i corridoi della mobilità, le nuove corsie preferenziali. Un'ultima ora che arriva da Berlino, la scrittrice Christa Wolf, uno dei massimi autori tedeschi, a lungo simbolo della letteratura del dissenso in Germania Est, è morta. L'autrice di Cassandra e Un cielo diviso aveva 82 anni. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di crisi economica, delle parole di fiducia che è tornato a pronunciare oggi il capo dello Stato. L'Italia deve farcela, ha detto. Intanto il ministro Passera avverte: rischiamo di entrare in recessione. Ha parlato anche Draghi all'Europarlamento: i governi recuperino credibilità, ha detto, serve un bilancio unico per l'Eurozona. Tra poco torneremo a parlare di 'Ndrangheta a Milano, la Boccassini precisa, indagini sulla presenza di talpe anche nel capoluogo Lombardo. Andremo anche all'estero, in India, che apre il commercio al dettaglio agli stranieri, protestano però i rivenditori locali. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio. Le infiltrazioni della 'Ndrangheta nel nord Italia, un tema caro a Radio 24. Ieri ci sono stati degli arresti importanti, tra cui un giudice. Oggi la conferenza stampa di Ilda Boccassini. Gli ultimi aggiornamenti dal Palazzo di Giustizia di Milano con Raffaella Calandra. Prima il GIP l'ha scritto nell'ordinanza: non ci sono affari del nord e del sud, ma un unico sodalizio. Poi il procuratore aggiunto milanese Ilda Boccassini l'ha prospettato come monito: Milano può diventare come Reggio Calabria, ha detto. Così, se è vero che la 'Ndrangheta riproduce ovunque la sua struttura, alla luce dell'inchiesta di ieri che ha portato in carcere anche un magistrato calabrese, le talpe possono nascondersi pure negli uffici giudiziari meneghini. Ci stiamo lavorando, anticipa la Boccassini, che, ricordando poi una sua analoga passata esperienza con l'arresto, cioè, del giudice Squillante, si fa portavoce dell'amarezza di scoprire l'esistenza di servitori dello Stato come magistrati o come il maresciallo della Guardia di Finanza arrestato, che pubblicamente professavano antimafia anche con attestati di solidarietà ai colleghi minacciati, in privato invece tradivano il loro giuramento. Ma poi lo Stato prevale sempre, dice la Boccassini. Sentiamo. Credetemi, è stata un'indagine difficile, eppure quando avrete modo di sapere gli atti che sono già pubblici, alcune persone sono state seguite per un mese a Reggio Calabria, un territorio ostile, e questo è stato possibile per l'abnegazione, questo va sempre ricordato, il sacrificio e la passione per quello che si fa e il rispetto dello Stato in cui a tutti noi abbiamo prestato un giuramento. Un aspetto sempre più centrale in queste indagini contro l'andrangheta tra Milano e Reggio Calabria assumono le notizie sulle inchieste in corso che diventano merce di scambio. Così non casuale è stata definita dagli inquirenti la contemporaneità tra la cosiddetta fuga di notizie contestata al magistrato arrestato ieri e le rivelazioni sul maxi blitz contro le cosche messo a punto l'anno scorso tra Lombardia e Calabria, una rivelazione imputata ad un ex informatore dei servizi segreti Zumbo, già arrestato a Reggio Calabria, ma anche su questa figura le indagini sono tutt'altro che concluse e gli scenari sempre più foschi. E per ora dal Palazzo di Giustizia di Milano è tutto. Grazie Raffaella, ora intanto è ufficiale, sarà azzerato il processo in corso da luglio per l'assassinio di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia sciolta nell'acido circa 2 anni fa. Lo ha confermato la Corte d'Assise di Milano, che aveva perso il presidente nominato capo di gabinetto dal neo ministro della giustizia Severino. Ci spostiamo all'estero, dove un uomo di 40 anni, Bakery Camara, è stato arrestato a New York dopo aver ammesso di essere stato lui ad uccidere Rita Morelli, l'italiana trovata morta nel suo appartamento nell'East Harlem. E poi parliamo dell'attacco all'ambasciata inglese a Teheran, che è un attacco a tutta l'Unione Europea. Questo lo hanno detto i ministri degli esteri europei in una dichiarazione che dovrebbe essere pubblicata tra breve. Si va verso il no ad un embargo petrolifero contro Teheran, ma c'è la disponibilità ad esaminare restrizioni graduali dell'importo di petrolio insieme a nuove sanzioni nei settori dei trasporti e finanziari. Ha fondato la comunità monastica di Marmusa nel deserto siriano con monache e monaci di varie nazionalità impegnati nel dialogo tra cristianesimo ed islam. Ora padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, dopo 30 anni in Siria è stato espulso, anche se per il momento è rimasto nel paese. Condannato anche per la sua via di uscita dalla crisi siriana. Sentiamo il suo racconto al microfono di Katia Caramelli. Le difficoltà di cui ho sofferto e poi di conseguenza anche la fondazione monastica che abbiamo creato assieme, in questo gruppo di fratelli e sorelle siriani e di altri paesi, in questa comunità dedicata all'armonia islamo-cristiana e al dialogo, le difficoltà risalgono ad anni addietro e direi sono dovute all'opacità ambiente di natura politica, opacità culturale, opacità di contesto ecclesiale nel senso largo del termine. Adesso siamo un po' a quest'ultimo capitolo che si accompagna con la tragedia di questo paese in questo momento. La decisione dell'espulsione già c'è, ma la reazione un po' di tutti mi sembra che lasci uno spiraglio alla speranza, e vedremo nei prossimi giorni come le cose si muovono. Comunque sta avendo tanta solidarietà da giovani anche su Facebook. Avere 2500 giovani che su Facebook si sbilanciano e si compromettono a difendere un monaco del deserto è certamente qualcosa di interessante. Riconoscono in noi, la nostra attività, la nostra presa di posizione, testimonianza, un simbolo necessario per l'evoluzione siriana in questo momento. Riconciliazione nella verità, riconciliazione nella trasparenza, riconciliazione attraverso la libertà di opinione e di espressione, e riconciliazione attraverso un negoziato autentico, aperto, che non preveda vinti e vincitori. Restiamo all'estero, uno sciopero gigantesco con oltre 50 milioni di adesioni sono i numeri della giornata di protesta indetta dai commercianti indiani contro l'arrivo dei supermercati stranieri. La protesta è feroce perché i negozianti indiani hanno paura e così oggi la maggior parte dei mercati di New Delhi è rimasta chiusa. Protestano perché i giganti della grande distribuzione internazionale hanno avuto il via libera dal governo di entrare nel paese. La riforma è gigantesca e si tratta di una decisione rinviata per anni ma che oggi è impossibile posticipare. Il paese ha bisogno di investimenti e così ha consentito agli stranieri di entrare nelle 53 città più grandi. Per i giganti stranieri della grande distribuzione, finora in India era solo possibile controllare una società all'ingrosso, rifornendo piccoli negozi. Chi entrerà in India dovrà però sottostare a delle condizioni imposte dal governo, e cioè investire un minimo di 100 milioni da indirizzare almeno per la metà in infrastrutture, catene del freddo, lavorazione e packaging, in modo da garantire posti di lavoro locali, e poi che almeno il 30% delle merci venga fornito dai piccoli produttori. Condizioni che non rassicurano e non placano la rabbia e i timori dei piccoli venditori. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. La Lombardia perde, seppur di poco, il primato nel settore della sanità al vertice della classifica del rapporto dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata. Dopo anni di eccellenza lombarda, spicca quest'anno il Veneto. Quanto ha pesato la vicenda San Raffaele? A rispondere così il presidente dell'AIOP, Enzo Paolini. La vicenda San Raffaele dimostra che in un ospedale privato chi interviene per colmare gli eventuali disavanzi che ci sono e che possono portare addirittura a un fallimento di un ospedale privato sono altri investitori privati, non sono le tasche dei cittadini. Per quanto riguarda le liste d'attesa, la crisi ha pesato su questo fronte? Sì, ha pagato fortemente, perché l'imposizione di tetti di spesa sempre più ridotti, soprattutto nelle regioni sottoposte al piano di rientro, hanno creato un allungamento delle liste d'attesa anche in prestazioni definite cosiddette salvavita, e cioè ad esempio nella diagnostica pretumorale, nelle risonanze, determinato non da una pessima qualità, da una cattiva qualità del servizio sanitario italiano, che anzi rimane eccellente, uno dei primi del mondo, ma da una politica dell'amministrazione sanitaria che non è coerente con le esigenze dei cittadini, spende male quello che potrebbe essere speso meglio. Parliamo di scuola adesso, di due personaggi ingombranti che fanno parlare molto in questi giorni. Giovanni Scattone ha rinunciato. Con un fax ha annunciato le dimissioni da prof di storia e filosofia al liceo Cavour di Roma. Quello stesso liceo frequentato da Marta Russo, la ragazza uccisa nel 97 da un colpo di pistola sparato chissà perché. Marta uccisa secondo sentenza proprio da Scattone. Nessun passo indietro invece dalla figlia di Rina, Concetta, eletta rappresentante di istituto nella scuola elementare di Corleone, frequentata dal figlio. Due casi molto diversi fra loro, ma che pongono entrambi un problema di opportunità. Scattone è vero, ha pagato la sua pena, ha chiuso i conti con la giustizia e ora deve guadagnarsi da vivere. Con quella supplenza al Cavour guadagnava appena 800 euro. Concetta Rina di pene non se ne è mai viste combinare, sconta il cognome, paga pegno per quel padre assassino e mafioso. Tutto vero. Scattone ha pagato, Concetta Rina in teoria non ha nulla da pagare. Però come spiegare ai genitori di Marta Russo che l'assassino della figlia, perché così hanno stabilito i giudici, è diventato un punto di riferimento morale? Perché questo deve essere sempre anche un docente. Per ragazze appena più giovani di Marta è proprio fra quei banchi che hanno visto studiare Marta. E come spiegare agli altri genitori di Corleone che sicuramente Concetta Rina sarà imparziale quando saranno da prendere decisioni sulla convenzione all'associazione di Addio Pizzo? Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da marzo sarà possibile passare da un operatore mobile all'altro in 24 ore mantenendo il proprio numero di cellulare, e ci saranno anche indennizzi in caso di ritardo. Gli operatori di telefonia mobile hanno 3 mesi per adeguare sistemi informatici e procedure, e da marzo dovranno garantire in 24 ore il passaggio ad un nuovo gestore che, in caso di ritardo, dovrà pagare un minimo di 2,5 euro per ogni giorno lavorativo fino ad un massimo di 50 euro. Le novità sono state introdotte dall'Autorità per le Comunicazioni dopo che la Commissione europea ha richiamato già 2 volte il nostro Paese, il Parlamento in particolare, perché a maggio avrebbe dovuto recepire una direttiva, conosciuta anche come pacchetto Telecom, che contiene anche queste novità. Speriamo che da marzo tutto fili liscio, perché finora 16 lamentele su 100 sui disservizi segnalati all'Autorità per le Comunicazioni riguardano proprio il passaggio da un operatore all'altro. È pur vero che le società di telecomunicazioni devono gestire circa 30 milioni di passaggi ogni anno e giustamente chiedono ora tutele all'Authority contro i clienti che, dopo aver accumulato bollette stratosferiche, scappano dal concorrente. Ma è anche vero che ci sarebbe un modo per ridurre questo spreco: cominciare a premiare non i nuovi, ma i vecchi e fedeli clienti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Roberto Scaltritti. Vi lasciamo prima all'ascolto di Italia in Controluce, poi ad America 24. Mario Platero ha intervistato Sergio Marchionne. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.